però volevo fare solo una piccola considerazione. Dal Milan e la Juve, non è che vedo questa squadra così della Madonna, nel senso pratico. Tutto il calcio minuto per minuto, signori e signori sportivi, amici in ascolti, buon pomeriggio qui dallo studio centrale, vi parla Roberto Bottoluzzo per solo le breve cronache del primo tempo con voi Cagliari. Sei in ascolto, Cagliari. Andiamo, corriamo, tutti a San Siro, si potrà così ammirare l'estro di giocate rare. Tutti convocati di Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Biantrini in redazione, Roberto Scaltritti in regia, in onore del nostro ospite di oggi qui in studio vicino a me. Proviamo a sentire un pezzo a caso della conferenza stampa di Mazzarri che sta parlando. Credo che come organico le valutazioni le fate voi e mi sembrano abbastanza eque quelle che ha fatto quando si valuta i due organici. E può essere anche da stimolo avere appunto da incontrare una squadra forte. Magari credo che nel caso di oggi non ci sarebbero stati problemi da quel punto di vista, perché avessimo incontrato anche l'ultima della in classifica. Domani credo i ragazzi entreranno in campo con la determinazione giusta, con l'attenzione giusta, con tutte le componenti che ci hanno contraddistinto fino ad ora, a parte Catania, e quindi non ci sono problemi, credo. Va bene così. Sarà così contento Marco Belinazzo, sceso dal sole 24 ore. Ciao, ho fatto subito sentire Mazzarri, allenatore del tuo Napoli, che tra l'altro domani gioca il big match di questa giornata infrasettimanale contro la Lazio in casa. E chi l'avrebbe detto qualche anno fa che Napoli-Lazio sarebbe stato il big match del campionato? Io già l'anno scorso, insomma, un'idea ce l'avevo. C'è Gianni che scrive: dai via, crisi delle milanesi e grande Juve, buon ascolto. Gianni ha sbagliato, 800240024 invece tutti convocati oggi per parlare di grano, di denari, di soldi sul calcio, approfittando della competenza di Marco Belinazzo che sa tutto mentre io non so nulla. Però parliamo anche di calcio naturalmente, poi parleremo di Formula 1 e poi attenzione perché ci collegheremo con la clinica in cui Ronaldo sta cercando di dimagrire. Tutto questo in tutti i convocati di oggi. Partirei però dalla copertina relativa alla partita di stasera che apre la giornata, che è una partita tutt'altro che banale, sulla quale il designatore ha aggiunto il sale dell'arbitraggio, perché Tagliavento che torna a fischiare la Juventus dopo la famosa notte di Muntari. Quando è tornata a fischiare il Milan a Bologna non è andata benissimo, stasera vediamo, però è una partita, quella di stasera, Fiorentina-Juventus, dai mille significati. La partita Fiorentina-Juventus significa per noi fiorentini tutto, una partita che vale un anno intero. Senti, levami una curiosità. Nella tua vita di artista, di chansonnier, quante volte hai cantato La porti un bacio a Firenze? Mamma mia, non ne parliamo. Partiva una mattina coi vapore. D'accordo, Roberto, prendo il Niemel, si gioca il sedicesimo del secondo tempo a Cagliari, la situazione è ancora di 0-0. Due minuti fa, al quattordicesimo, per la verità, la Fiorentina era andata in gol con Graziani, ma Mattei ha annullato perché l'azione era stata viziata da una spinta effettuata dagli attaccanti viola nei confronti dei difensori sardi. Ancora 0-0 tra Fiorentina e Cagliari al tempo lianese. Vai pure Enrico Meri. Benissimo, è stato concesso un calcio di rigore in un'azione rocambolesca e c'è stato un fallo di mano commesso dai giocatori della difesa del Catanzaro. Bredi dovrebbe essere l'uomo incaricato di effettuare questo calcio di rigore. Parte il tiro, rete sulla destra del portiere Zaninelli, si è insaccato il calcio di rigore, un raso terra non molto forte ma tirato con estrema precisione. Lo scudetto è stato vinto dalla Juventus, quindi nessun pareggio, scudetto subito alla formazione bianconera, un'altra stella sul petto dei giocatori juventini che conquistano così il loro 20° titolo. La porti un bacione a Firenze, se la rivedo glielo renderò. Sperato fino alla fine, così che ci potesse essere una soluzione diversa, soprattutto pensando ai tifosi della Fiorentina, perché credo che il rispetto vada per loro. E per tranquillità sin da quest'ora in viaggio chiuso. Gli chiediamo veramente i soldi del biglietto aereo, non è una battuta, il biglietto aereo aveva pagato dalla Fiorentina, doveva venire a Firenze, si è fermato a Monaco, ha trattato con un'altra società, tra i due litiganti ha scelto la terza, ci mancherebbe pure che non gli chiediamo il biglietto dell'aereo. io porto il tuo bacio. Mi è piaciuta, Marco, dal rigore di Brady a Berbatov. Beh, è un bello excursus. E tra l'altro la partita di stasera, Carlo, va anche inquadrata, se proprio vogliamo metterla in termini di soldi, con due modelli di gestione che sono affermati nel calcio italiano, che in qualche modo faranno anche un po' storcere il naso ai tifosi di Inter e Milan. Perché se è vero che la Juve ha investito nelle ultime tre campagne acquisti, diciamo gennaio 2011, gennaio 2011 e questa campagna acquisti, netti 150 milioni di euro e ha posto le basi per dominare in Italia, è vero altrettanto che la Fiorentina con Pradé, con Daniele Pradé, è stata capace non solo di fare una campagna acquisti che le ha permesso di come dire, rifondare la squadra e di ridarle un tono, ma ci ha anche guadagnato circa 10 milioni di euro e per di più ha posto le basi per una bellissima plusvalenza l'anno prossimo con quel giocatorino lì che hanno in attacco, tale Jovetic, che sarà sicuramente, insomma, conteso l'ultimo asso del calcio italiano che resta in Serie A, a parte Cavani, ma Cavani ce lo teniamo. Ha detto non devono arrivare qui con i soldi, l'ho sentito l'altro giorno a Auriemma, no? Quando ha segnato quel gol, portateci 60 milioni, ma tanto non ce li porta nessuno. Beh, io che l'anno prossimo a Firenze e a Napoli qualcuno li porterà. E la Serie A, insomma, dovrà in qualche modo inchinarsi e semmai attrezzarsi per il futuro, perché è questo l'errore che secondo me va imputato a Milan e Inter. Poi se voi ne parliamo altro che, anche con gli ascoltatori convocati all'800 24 00 24, questo vi ricordo è il numero verde, messaggi 349 238 6666. Torniamo subito. Strade in diretta. In uscita da Genova sulla 12, la Genova-Livorno, le code per un incidente tra Genova Est e Nervi hanno raggiunto i 5 km, come ripercussione ci sono code sulla 7, la Milano-Genova all'innesto con l'autostrada A12. Si rallenta per lavori sull'Autosole tra Fidenza e Fiorenzuola nelle due direzioni, restano le code per un incidente verso il centro di Roma sulla statale Pontina tra Castel Romano e Via di Decima, si è ribaltata un'auto. Noi torniamo tra mezz'ora. Tutti convocati. Questa è dedicata a te, Marco Belinazzo del Sole 24 Ore, che ci parlerai di, ma ho già diversi messaggi, di denaro, money, fair play finanziario. Volevo metterti una musichetta araba, ma poi abbiamo evitato. Ci accusano di averla buttata in cacciara. Sì, proprio così. E allora? 800 24 00 24. A noi piace così, tutti convocati. Arabi, sceicchi e fair play, è quello che si chiedono tutti. Questi spendono e spandono, ma nessuno chiederà il conto. Ma io ho l'impressione che invece qualcuno il conto lo chiederà. Tra l'altro qualche giorno fa sui giornali inglesi, qualche volta sono anche seri, perché sembra che sparino sempre nel mucchio. Ecco, non volevo usare questa espressione, ma di fatto hanno iniziato a parlare seriamente in Premier League di importare anche nel campionato inglese le regole del fair play finanziario. Quindi non solo saranno valide, o potrebbero essere valide soltanto per le competizioni europee, ma anche per lo stesso campionato. Quindi non si sta scherzando. E l'ultima recente polemica che è nata proprio con il Paris Saint-Germain e quegli sceicchi qatarioti che tanto hanno speso quest'estate, la scorsa estate, testimonia di come la UEFA invece stia appunto vigilando. Si è parlato infatti di un contratto di sponsorizzazione tra il Paris Saint-Germain e un istituto finanziario qatariota, non meglio specificato, da 100 milioni all'anno, che permetterebbe di colmare il buco che sicuramente si creerà nei bilanci. La UEFA ha subito fatto presente, senza riferirsi ovviamente direttamente ai parigini, che questo tipo di sponsorizzazioni saranno valutate in maniera seria, con una regola che è quella del fair value. Cioè, o comunque, gli ha detto in arabo, non fate i furbi, state attenti. State e subito il Paris Saint-Germain ha smentito questa questa prospettiva e questo contratto che altrimenti io ho l'impressione avrebbero fatto di lì a poco, proprio perché non si vede come il Paris Saint-Germain possa aumentare di tanto i ricavi da riuscire già quest'anno ad avere una sorta di minimo di pareggio di bilancio o comunque un bilancio tendente al nero e non al rosso, o a un rosso sproporzionato. Questa regola a cui accennavo è molto semplice, cioè non puoi, se tu hai una società, se sei proprietario di una società e non puoi più mettere soldi direttamente perché questo è vietato dal fair play, non puoi farla sponsorizzare da un'altra tua società. Certo. E perché in questo modo, come dire, i furbi ci continuerebbero a marciare. Platini ha detto agli arabi: non abbiamo l'anello al naso. Più o meno glielo ha fatto capire, anche se ti dirò, Carlo, che qualcuno nelle stanze della UEFA di Nyon, mentre prima erano tutti rigidi nel voler applicare il fair play, qualcuno ha iniziato a dire: beh, però insomma questi poi i soldi li portano, fanno girare il danè, quindi insomma non ci mettiamo. Questa non è una considerazione sbagliata. Svegli anche voi, 800 24 00 24, numero verde, perché in questo momento anche nel genere sentivamo crisi e ricrisi e ci seppelliamo sotto il tavolo, chiaramente, no? Cioè, gli unici soldi veri che arrivano sul calcio in questo momento sono quelli che portano i signori col turbante. Oppure quelli che arrivano dalle ex repubbliche sovietiche. O quelli che arrivano dalle ex repubbliche sovietiche. Ed è chiaro che rinunciare a questi introiti potrebbe non essere così, così semplice. Quindi, diciamo, il calcio europeo non è in crisi. Perché per esempio i premi per l'UEFA Champions League e l'Europa League quest'anno frutteranno quasi diciamo 1,3 miliardi alle squadre che parteciperanno alla competizione. C'è stato un incremento rispetto all'anno scorso del 20% della Champions e del 40% dell'Europa League. Sono soldi che si ricavano dalle TV e dal marketing, quindi vuol dire che il calcio tira ancora. Il problema è gestirlo in maniera oculata. Quello che da qualche parte in Europa, in Inghilterra, in Germania hanno fatto e qualche società spagnola ha fatto, e che in Italia purtroppo non si è riuscita a fare. Sta parlando Tassotti in diretta, lo sentiamo. Ad altri momenti del Milan, insomma, del periodo Berlusconi, non so, ci sono stati altri momenti difficili, però un inizio così non lo ricordiamo, insomma, come se ne viene fuori? Se ne viene fuori cercando un po' di serenità. Credo che in questo momento sia forse più facile giocare fuori casa che in casa, perché un conto è essere fischiati dai tifosi avversari, un conto è essere magari fischiati dai propri tifosi, ma devo dire che fino a questo momento i tifosi con noi si sono sempre comportati bene, hanno sempre sostenuto la squadra. Se poi c'è stato qualche fischio alla fine della partita, credo che sia anche legittimo, insomma, se uno non è contento dello spettacolo, ma durante la partita ci sono sempre stati vicini, anche se poi lo stadio in queste partite non è mai stato pieno così. Parla Tassotti, naturalmente, perché il titolare al momento di quella panchina è squalificato e Carlo Ancelotti ci ha messo il carico da mille. Ma se il Milan dovesse perdere, sarà esonerato Tassotti o Allegri, secondo te? Sarà esonerato, ma Galliani dice nessuno. Nessuno. Intanto Carlo Ancelotti ha detto la sua: il mio erede, Pippo Inzaghi, ci sentiamo spesso al telefono, è molto motivato, l'importante è che lui sia riuscito a fare quello stacco mentale da calciatore allenatore, il resto lo fa l'esperienza e lui ne ha da vendere, quindi trova uno sponsor. È uno sponsor importante, e tra l'altro, appunto, accennavamo prima al perché di questo momento del Milan. Non bisogna ingannare i tifosi. Il Milan ha fatto un'operazione che forse andava anticipata di qualche anno e che è stata, come dire, coperta da colpi importanti di mercato che Galliani ha fatto negli anni scorsi e che hanno appunto mascherato una situazione difficile. Mi riferisco all'operazione Ibrahimovic preso a 24 milioni dal Barcellona, e poi un giorno di magia. Un giorno forse riusciremo a capire come ci è riuscito Galliani. Sì. L'operazione Nocerino, un miracolo l'anno scorso, prende un giocatore che va in doppia cifra. Poi ne stava facendo un altro con Compato, ecco, e Tevez, e quella non gli è riuscita benissimo. Io penso che il momento difficile del Milan sia iniziato lì. Che questa sorta di canale negativo in cui la squadra e la società si sono direzionate negli ultimi mesi è iniziato in quel momento, perché se Galliani fosse riuscito effettivamente a piazzare Pato al Paris Saint-Germain prendendo Tevez praticamente a costo zero, no? Alla fine avrebbe innanzitutto portato un giocatore di grande spessore e soprattutto con un futuro. avrebbe forse risolto un problema al Milan, visti gli infortuni continui di Pato, e avrebbe iniziato a tracciare quello che sarebbe stato poi il Milan dei prossimi anni. Invece quell'operazione fermata lì non si è capito poi tanto bene, forse si è capito fin troppo bene il motivo è... ha portato a quello che è successo quest'estate, cioè la necessità drasticamente di dover tagliare i salari, credo a un certo stacco tra la proprietà e lo stesso Galliani, perché insomma non credo che Galliani abbia ancora oggi mandato giù quello smacco pubblico. Senti Marco, parliamo con gli ascoltatori che ho convocato e hanno risposto. 800240024, Massimo da Padova è il primo. Buongiorno, dica. Parlate di soldi, quindi mi sembra che il mio intervento money, scala money, a fagiolo. Money. Allora, la partita Cagliari-Roma, partita di cartello che poteva dare quindi anche un discreto incasso alla squadra, si è deciso di farla giocare a porte chiuse, come un concerto, si organizza un concerto a porte chiuse per motivi di sicurezza. Queste cose non dovrebbero succedere, ci dovrebbe essere un'organizzazione alla quarta di campionato, poi lo stadio, evita queste cose. Lo stadio era inagibile e io aggiungo che comunque il campionato è già stato falsato comunque da questa scelta, da questa decisione, da questa forzatura. Beh, la decisione credo che da un certo punto di vista fosse inappuntabile, quella del prefetto, poi di bloccare tutto, visto la situazione e il pericolo che si erano. Non si poteva giocare quello, non si poteva avere la provocazione di Cellino, che sia. Attenzione, perché mi avverto una regina che è dalla regia, non dalla regina d'Inghilterra, ma dalla regia, che il presidente Massimo Cellino ha sciolto la riserva e il Cagliari impugnerà la decisione del giudice sportivo che ha decretato la sconfitta a tavolino 0-3. Beh, quello era in qualche modo scontato. Tra l'altro ho letto un po' delle possibili cause di ricorso con i precedenti citati, non c'entrano niente insomma con il caso Cagliari. Purtroppo Cellino si è esposto troppo, è stato lui che pubblicamente ha invitato i tifosi ad andare allo stadio e gli scatta la responsabilità diretta della società, e tra l'altro il Cagliari potrebbe anche subire delle penalizzazioni, soprattutto se poi andrà avanti nel ricorso. Segno di un calcio in cui ognuno fa il cavolo che gli pare e gli viene consentito senza pagare troppo dazio, mi pare. Antonio, provincia di Foggia. Salve, buongiorno dottor Garanzino. Volevo due considerazioni da lei. Come vede la partita di stasera? E per quanto riguarda la dichiarazione che ha fatto il dottor Zampanese del Palermo, che gli stipendi sono troppo alti. L'ascolto per radio, grazie. Sì, la partita di stasera la vedrò in televisione, immagino. Sarà una gara molto molto interessante, perché la Fiorentina è una, insieme alla Roma, la squadra che mi intriga di più in questo inizio di stagione. Ha preso un giocatore, Borja Valero, che è bravissimo, e io l'avevo visto giocare, si era visto giocare negli scontri tra Napoli e Villarreal, e mi sorprende come alcune società se lo siano lasciate scappare, anche perché il Villarreal era in crisi economica ancora peggiore rispetto ai club italiani, quindi appunto si poteva prendere con qualche milione di euro. È stato bravissimo Pradé. Zamparini ha detto che sono alti gli stipendi, per fortuna se ne è accorto anche lui. Se ne è accorto adesso. Sai, il problema non è tanto che sono alti gli stipendi, è il rapporto tra stipendi e fatturato. Il Real Madrid e il Barcellona pagano 200 milioni di ingaggi, ma hanno fatturati di 500 milioni, di 400 milioni. E riescono a pagare gli interessi alle banche. Evidentemente. Hanno una capacità di generare cassa enorme, anche perché lì in Spagna c'è un sistema diverso della vendita dei diritti TV, cioè Barcellona e Real Madrid si siedono al tavolo con i broadcaster e contrattano i propri diritti TV. Certo. E non a caso Real Madrid e Barcellona fanno 900 milioni di fatturato su 1,5 miliardi che fa la Liga. E con tutte le domande che avete da fare a proposito di calcio e grano, Marco Belinazzo dal Sole 24 Ore qui con noi, 800240024, il numero verde. C'è chi scrive che la Juve stasera perde perché fa parte del contratto dell'acquisto di Jovetic a gennaio. Beh, devo dire che c'è molta fantasia negli ascoltatori. C'è un sacco di fantasia nei nostri ascoltatori, li vogliamo sentire. 800240024, numero verde. Ma adesso, caro Marco, prima di chiederti lumi sulle politiche societarie di Inter e Juventus, io vorrei Vorrei, tra poco ci colleghiamo con la clinica in cui Ronaldo sta tentando di dimagrire. So 120 che sta facendo un reality, no? Ci mancava altro che non fosse un reality. Ronaldo Luiz Nazário de Lima, 36 anos, ex-jogador de futebol. Pentacampeão do mundo, um dos maiores ídolos do esporte. 19 meses depois de abandonar os campos e muitos quilos acima do peso, Ronaldo decide encarar um desafio que começa agora, abrindo o Fantástico deste domingo. Eu estou gostando do trabalho que você está fazendo de panturrilha aí. Um desafio exemplar. Poi ci colleghiamo com a clínica de Ronaldo per sentire come sta andando l'attività di. Bravissimo. Per fare buone cure occorre grande forza di volontà. Non tiene volontà. Sta andando grosso modo così. Spero per lui che siano più indulgenti nella clinica di Ronaldo. 800240024. So che vi arrabbiate come le bestie quando faccio sentire queste cose, che però a me piacciono da morire. Senti, ma leggevo russi che potrebbero entrare nell'Inter, invece forse entrano nella Saras. L'Inter che sta succedendo? Beh, questa estate si era parlato prima di russi, poi di sceicchi, alla fine sono arrivati i cinesi, anche se diciamo non direttamente nel capitale dell'Inter, perché si era parlato all'inizio di questo intervento della China Corporation. Esatto, sì. Poi svaniti nel nulla. In realtà poi ha precisato l'Inter in un comunicato che la China Corporation dovrà intervenire soltanto per la costruzione dello stadio, avendo un know-how importante, essendo la prima grande impresa di costruzione in Cina, e che invece altri cinesi, che poi dovevano essere svelati in un secondo momento, sarebbero entrati nel capitale per una quota intorno al 15%. Questo è quello che è stato poi raccontato questa estate. Per il momento i cinesi restano un mistero. L'investimento annunciato dovrà essere fatto, perché è stato annunciato, quindi non penso che una società seria come l'Inter abbia annunciato qualcosa che poi di fatto non viene realizzato, ma non sappiamo ancora l'identità di questi. Ma come valuti le manovre dell'Inter tra entrate ed uscite? Si è liberata di contratti con notevole ritardo, di contratti molto pesanti, ha preso giocatori giovani piuttosto interessanti e poi ha preso Cassano, che giovane non è. Come valuti il movimento dell'Inter? L'Inter negli ultimi 6-7 anni aveva speso in rosso di bilancio, quindi in soldi che Moratti aveva immesso nella società, tra i 600 e i 700 milioni di euro. Evidentemente non si poteva andare in quella direzione, soprattutto perché la Saras non garantisce più assegni a Massimo Moratti, e quindi a quel punto l'Inter ha cambiato società. Lo ha fatto bene, secondo me, perché gli ingaggi sono stati ridotti di una cinquantina di milioni, sono stati comprati giocatori, se vuoi, funzionali a un progetto che è quello di Stramaccioni. Poi i progetti possono andare bene o male, però c'era un progetto. Magari sull'altra sponda di Milano la stessa operazione lodevole di taglio degli ingaggi da 190 a circa 100 milioni di euro, che è stata fatta questa estate, non è stata fatta però semmai con un progetto tecnico importante, sì. Perché forse non si è voluto dire ai tifosi che si stava rifondando, che si stava tentando di rifondare, sì, la squadra, forse non si poteva dire nemmeno agli sponsor, e di fatto poi ci si ritrova di fatto con due squadre più o meno nelle stesse condizioni, che perdono in casa, il Milan però sull'orlo di una crisi di nervi, l'Inter che in qualche modo sembra avere una progettualità. Quindi io darei un voto positivo ad entrambe per quanto riguarda gli aspetti puramente economici, post campagna acquisti. Un voto positivo all'Inter, certamente non negativo, non positivo al Milan, per quanto riguarda invece la progettualità tecnica e la chiarezza con i propri tifosi. Di programmi, chiarezza con i propri tifosi non esiste nella maniera più assoluta. C'è chi scrive: tra insulti vari siete degni di Nicoletti, e questo invece lo piglio come un complimento. Corrado Mantova, 80024 0024 è il numero verde per essere convocati qui, oggi. Sì, grazie. Grazie a lei. Quando ho iniziato a sentire la trasmissione radiofonica, volevo intervenire sul fair play finanziario sottolineando che mi sembra, penso che abbiate poi già detto in trasmissione, che mi sembra quasi un paradosso creare delle regolamentazioni per impedire che ci sia un afflusso di soldi freschi nel sistema. Il punto è, a mio parere, creare un tetto negli ingaggi, perché sono gli ingaggi che sono flussi incredibilmente alti di cash che escono dal sistema e vanno ad arricchire i calciatori spesso al di là dei loro meriti. Questo lei dice a livello comunque europeo? A livello europeo, ma anche a livello italiano, e è certo, è ovvio che non può farlo un unico campionato, almeno i maggiori dovrebbero mettersi d'accordo. Ma il punto è che io non ho nessun problema che entri un ricchissimo arbo e spenda 200 milioni o anche un miliardo per comprare calciatori, fare centri tecnici, far crescere degli allenatori. Il mio problema è che li spende per dare 20 milioni di euro netti a Eto'o. È lì che impoverisce il sistema, lo sbanca e poi dopo 3 anni, se se ne va, il sistema è ridotto in macerie. In quel caso non ero... Sono gli ingaggi, non gli investimenti sostanzialmente. Sì. In quel caso non era un arabo, ma era un magnate russo. Io sono sempre convinto che i giocatori, in quanto prestatori d'opera infungibili, come gli artisti, come gli attori, come i pittori, eccetera, possono avere un valore di mercato finché il mercato regge, finché c'è qualcuno in grado di pagare quei soldi. L'ipotesi di stabilire un salary cap è stata presa in considerazione, ma di fatto i calciatori e soprattutto i procuratori, che sono una lobby fortissima, hanno impedito che si scegliesse questa strada. Quindi si è scelta la strada del fair play finanziario per aggirare questo sorta di veto, no? al tetto agli ingaggi, come ci sono. Che c'è negli Stati Uniti, ma li apriremo un capitolo enorme, perché sì, sono regole, certo, sono regole totalmente diverse, che non impediscono alle superstar dei vari campionati di guadagnare molto più di quanto non guadagni Eto'o, di quanto non guadagni Ibrahimovic. Peraltro va detto che questo discorso, cioè sul limite all'ingresso di soldi e di investimenti, che qualcuno ha detto potrebbe essere come dire, contrario, no, alle normative dell'Unione Europea, perché chi impedisce di investire in un certo settore, è stato posto anche questo problema, ma proprio quest'estate la Commissione Europea ha detto che le regole fair play finanziario sono compatibili con la normativa europea, perché tutelano un settore, quello dello sport, che ha anche un aspetto sociale, che quindi ha regole leggermente diverse da quelle della libera concorrenza, della sfrenata concorrenza. Sì. Io prima di continuare a parlare con te e con gli ascoltatori, naturalmente convocati all'800240024 di calcio e soldi, vorrei chiarirmi le idee su una notizia e un argomento che oggi mi ha molto incuriosito. Corriere della Sera, Arianna Ravelli, che scrive un articolo dal titolo Hamilton spinge Schumi verso la pensione. Arianna Ravelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tutti vogliono pensionare Schumacher e non ci vede più e fa casino in pista e va addosso agli avversari e non ha più l'età. C'è qualcuno che ha scritto a problemi di prostata, Twitter, problemi di prostata, è ora che si ritiri. Tutti vogliono cacciare via il povero Schumi. Una rottamazione anche qua. Rottamazione, sì. Ma sì, diciamo che Schumacher non ha fatto una bella figura a Singapore, quando ha fatto quello che per i piloti è proprio un errore marchiano, insomma, ha proprio sbagliato il punto di frenata ed è andato lungo e ha tamponato Werner. Sì, l'errore l'ha fatto tornando a monte, Arianna. Ma questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia. Devo dirvi la verità. Lui, io lo vedo, e proprio si diverte moltissimo, non è più lo Schumacher di una volta che eravamo abituati a vedere noi. Questo non è solo lo Schumacher di una volta in pista, ma non lo è più neanche fuori, è molto più rilassato, è molto più simpatico, adesso parla anche in italiano. E si vede che questo suo ritorno lui l'ha fatto proprio per divertirsi e l'ha fatto proprio perché a casa evidentemente si annoiava troppo. Detto questo, per chi l'ha apprezzato e per chi l'ha l'ha osannato magari all'epoca dei sette titoli mondiali, fa un po' tristezza, però sì. La tristezza non è come la vive lui, ecco, questo volevo dire. Lui la vive in maniera più rilassata, con un divertimento, però è vero che gli errori come domenica fanno chiaramente fanno crescere il partito di chi vorrebbe, insomma. Il problema è che il partito cresce anche a Stoccarda, cioè all'interno della Mercedes. Il problema per lui è questo. Noi abbiamo convocato Arianna Ravelli del Corriere della Sera per capire anche un po' quale sarà il movimento del mercato piloti, perché se vogliono pensionare Schumacher c'è la Mercedes che vorrebbe fortissimamente, vorrebbe ingaggiare Hamilton, ma la McLaren che ha detto, correggimi se sbaglio Arianna, pronti a pareggiare l'offerta della Mercedes. Sì, questo è un bordino che va avanti da un po', no? Ci sono dei giorni che sembrano più vicini all'accordo Hamilton e McLaren, dei giorni che sembrano più distanti. Le voci dopo Singapore erano che Hamilton fosse un po' più distante dalla McLaren di quando non c'era arrivato. Devo dire che il problema di affidabilità con cui forse è uscito dalla corsa mondiale non è una cosa che non è un fattore che depone a favore della McLaren in questo momento. Però è anche vero che insomma Mercedes in 3 anni ha vinto una gara, ecco, quest'anno in Cina con Rosberg, quindi è un po' una scommessa chiaramente questa. Però ci sono un cambiamento, oltre ai soldi che chiaramente sono una parte rilevante, ma è un po' una scommessa che si basa sul fatto che ci saranno dei cambiamenti regolamentari in cui il motore avrà un'importanza maggiore, insomma la Mercedes è produttrice di motori, la McLaren glieli deve comprare, no? Li compra dalla Mercedes, e questo fa sì che, come dire, in prospettiva Mercedes potrebbe avere delle carte tecniche proprio da giocare sul mercato piloti. Da giocarsi, esatto. E quindi il corteggiamento va avanti, adesso in questa è una settimana di incontri sia in McLaren che in Mercedes e vedremo un po' che cosa succede. Certo, uno come Hamilton che si sente e probabilmente il pilota più forte assieme ad Alonso che c'è in questo momento, è chiaro che vuole garanzie di tornare di competitività a vincere, naturalmente, sì, perché naturalmente non vince un mondiale dal 2008 e lui si sente per questo, insomma, si sente. Che poi io lo vedo un gradino forse due sotto ad Alonso, questa è un'altra storia, perché Alonso è anche la mia opinione, questa è anche la mia opinione. Perché Hamilton forse è imbattibile sul giro secco, quindi in qualifica, ma Alonso è più completo. Alonso è un'altra cosa. È un'altra cosa perché è una macchina proprio... Lui se dice che va sul podio anche con una macchina più scarsa ci va, ed è ha una regolarità e una capacità di non commettere errori. Ma quella dei più grandi. E che Hamilton secondo me non ha ancora dimostrato, no? Hamilton ha proprio la velocità pura. Sì, è vero, vero. Appunto, ma non ha quella capacità di gestire comunque il momento. Grazie Arianna, io ti saluto, ti ringrazio e ti abbraccio. D'altra parte, secondo me, caro Marco Bellinazzo, Hamilton sta facendo, Alonso sta facendo il mondiale capolavoro, il suo mondiale perfetto. Mi sembra di sì, e soprattutto credo che sia riuscito, come dire, a superare quelle che erano le mancanze, no, della macchina, che si sono manifestate fin dall'inizio, e questo ti dà chiaramente il valore del... Ha giocato difese contropiede quando la macchina non andava, e adesso sta cercando di giocarsi questo vantaggio, di amministrarlo. Credo che alla fine ci riuscirà, perché appunto ha dimostrato di essere, da questo punto di vista, appunto il ragioniere perfetto, quello che non fa mai una mossa azzardata. Allora, fonti della questura confermano soltanto 19 biglietti del settore ospiti per la Lazio al San Paolo, venduti fino al pomeriggio di ieri. Beh, dopo quello che è successo con gli svedesi, io credo che ci sia un problema serio di sicurezza che va al di là ovviamente del fattore calcio, lo si dice sempre, ma in questo caso, conoscendo la realtà di Napoli, è ancora più vero. Credo ci siano intorno alla società dinamiche poco chiare, non per colpa della società ovviamente, e che certe azioni teppistiche, intimidatorie, siano state fatte anche per lanciare un messaggio alla società. Purtroppo la procura di Napoli sta vigilando, vediamo quello che accade. Allora, abbiamo 2 minuti per la domanda di Alessandro e la risposta di Marco Bellinazzo. Alessandro, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Mi chiede Marco Bellinazzo, ma i 60 milioni che devono arrivare alla Juve per il nome dello stadio, dove sono finiti? Sono scappati via con i cammelli? Sì, grazie. Beh, è rimasta una questione aperta, quella del nome dello stadio e dei soldi che dovranno arrivare. In compenso la Juve quest'estate ha siglato un bel contratto di sponsorizzazione con Jeep, gruppo Fiat, e qui torniamo, se vuoi, alla questione Paris Saint-Germain e Qatar, per però la più modica cifra di 35 milioni in 3 anni, e quindi non avrà problemi da questo punto di vista. Il nome dello stadio, vedremo chi vorrà pagare per mettere il proprio marchio su questo stadio da cui nessuna squadra ospite finora è riuscita a uscire. La Juventus può permettersi campagne acquisti come questa? Bella domanda. Beh, la Juventus, ripeto, ha speso 150 milioni. Il rosso, il bilancio 2012 si è chiuso con meno 50, meno 48 milioni. Ha incrementato i ricavi dallo stadio da 11 a 30, certamente non servono a coprire il buco. È chiaro che andare avanti in Champions diventa fondamentale se la Juve riuscirà ad andare avanti in Champions, anche perché col fatto che ci sono soltanto Milan e Juve avranno più soldi dal market pool, e quindi se riuscirà ad andare avanti in Champions, ripeto, più avanti possibile, potrà colmare questa lacuna e magari il top player prenderlo l'anno prossimo. Ma sì, intanto lo sta cercando in casa, una volta Giovinco, basta che faccia una doppietta, un'altra volta è il top player flessibile, diciamo, top la Juve è inventata flessibile. Hai inventato, sì, esatto, anche questa definizione. Senti, come tutti quelli che passano di qui, adesso ti becchi il quizzone sulla Champions League. I numeri della Champions. Allora, c'è un record di imbattibilità in Champions League. Di chi è? Di imbattibilità in senso di partite vinte consecutivamente? Di imbattibilità della porta. Ah, della porta. Beh, devo dire che non credo sia un portiere italiano. No. Però neanche un grande portiere. Neanche un grande portiere. Ti do un aiutino. Allora mi metti in difficoltà. Arsenal. L'Arsenal. Van der Sar. No, Jens Lehmann. Ah, Lehmann, vedi? Stagione 2005-2006, 995 minuti di imbattibilità, interrotto dal gol di Samuel Eto'o al 76esimo minuto della finale. Guarda, io non ho indovinato, ma credo che anche esperti, molto più esperti di me su questioni di calcio giocato, avrebbero difficilmente indovinato. Pensa che io le so tutte a memoria. Lehmann, Jens Lehmann. I numeri della Champions. In collaborazione con Unicredit. Ed eccoci tornati, siamo in chiusura di trasmissione, ma secondo te come va a finire questa sera tra Fiorentina e Juventus? La Fiorentina riesce a fermare? Guarda, credo che in questo momento sia l'unica squadra in Italia che possa fermare la Juve. Se non ci riuscirà neanche la Fiorentina, ahimè, credo che assisteremo a una lunga cavalcata bianconera da qui alla fine del campionato, perché le altre squadre, compreso il mio Napoli, hanno dimostrato di essere ancora incostanti, non avere, come dire, quella completezza, quella forza per macinare partite su partite che la Juve ha dimostrato l'anno scorso e che sta dimostrando in questo avvio di stagione. Poi le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Sperem. Marco, io avevo un sacco di altre cose da chiederti, vorrei dire che tornerai, questa è casa tua. Volentieri. Grazie. Intanto io chiudo facendovi sentire sulla questione della telepatia. Conte non si fida poi così tanto della telepatia di Carrera, tanto che questa sera sarà in tribuna chissà dove a Firenze, ma ieri Carrera ha parlato così. Grazie a Franco Piantinelli in redazione, a Roberto Scalatritti in regia, a Marco Berinazzo qui con me, a domani alle 2. Ma francamente potrebbe anche non venire, non guardare la partita, perché in questo mese e mezzo che lavoriamo in questa maniera abbiamo affinato un metodo di telepatia veramente forte, quindi la pensiamo nella stessa maniera, anzi adesso mi sta dicendo delle cose che sicuramente a voi non posso dire.